Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Nessuno sospettava ciò che avveniva nel cuore di Thomas Buddenbrock. Nessuno doveva immaginarlo. E proprio questo imprescindibile compito di tenere tutti all'oscuro del suo cruccio, del suo rancore, della sua impotenza, era tremendamente difficile. Lui per primo aveva notato con sospetto la crescente sproporzione fra la propria persona e la strana immutabilità di Gerda, sulla quale nulla potevano gli anni, e ora, da quando era venuto in casa il signor von Trotha, doveva combattere col resto delle sue forze quella preoccupazione, doveva tenerla nascosta, doveva proprio, se non voleva rivelandola, esporre il suo nome al ridicolo. Gerda Buddenbrock e il giovane ufficiale si erano incontrati, ben s'intende, nella musica. Von Trotha suonava il pianoforte, il violino, la viola, il violoncello e il flauto, tutto magnificamente, e le sue visite si preannunciavano molte volte al senatore, seduto nel suo ufficio privato, col solo fatto che l'attendente, portando la cassa del violoncello sulle spalle, passava davanti alle tendine verdi e scompariva dentro la casa. Allora Thomas rimaneva seduto finché vedeva entrare anche lui, l'amico di sua moglie, finché la sala sopra la sua testa si empiva di armonie sonore che con canti, lamenti e gridi di gioia sovrumani pareva si elevassero a mani giunte o a mani tese convulsamente e dopo estasi folli ed errabonde si sprofondassero singhiozzando nella notte e nel silenzio. Divampassero pure, piangessero di dolore e di giubilo, si avvinghiassero frementi e assumessero pure a volontà qualunque atteggiamento sovrumano. Il male, il vero tormento, era il silenzio che seguiva e che lassù nel salone regnava a lungo, molto a lungo, ed era troppo profondo e inanimato per non destare orrore. Non un passo faceva vibrare il soffitto, non una sedia era smossa, soltanto il silenzio, un silenzio torvo, perfido, reticente. Allora Thomas si crucciava al punto da mandare talvolta un gemito sommesso. Che cosa temeva? Anche la gente aveva visto il signor von Trotha entrare in casa e con gli occhi di questa gente, per così dire, Thomas vedeva il quadro che essa vedeva. Vedeva se stesso, l'uomo invecchiato, logorato e scontroso, seduto nell'ufficio presso la finestra, mentre di sopra la sua bella moglie col vagheggino faceva musica, e non soltanto musica. Così lo sapeva, così se li figurava la gente. Che cosa paventava Thomas Buddenbrock? Niente, niente di preciso. O avesse potuto opporsi a qualche cosa di concreto, di semplice, di brutale. Alla gente di fuori invidiava la semplicità del loro modo di vedere la cosa. Lui, invece, mentre con la testa fra le mani si torturava ad ascoltare, sapeva troppo bene che le parole inganno e adulterio non bastavano a definire le musiche e i silenzi profondi di lassù. Una volta, in uno di quei momenti, mentre al secondo piano s'appoggiava alla ringhiera e guardava giù nel vano illuminato delle scale dove tutto era silenzioso, ecco Hanno uscire dalla stanza, scendere i gradini dell'altana e attraversare il corridoio per andare da Ida. Strisciando con un libro in mano lungo la parete, avrebbe voluto passare davanti a suo padre con gli occhi bassi e con un breve saluto, ma il senatore lo trattenne. «Oh, Hanno, che cosa fai?» «Studio, pappo. Vado da Ida per farle sentire la traduzione. Andiamo bene? Che compiti hai?» Con le palpebre abbassate ma in fretta e sforzandosi di dare una risposta limpida, Hanno, dopo aver inghiottito la saliva, rispose. Ma suo padre, a quanto pareva, non se ne accorse. Prese tra le sue la mano libera di Hanno e, distratto e senza saper che farsene di quanto aveva udito, andava tastando con le dita nervose quelle tenere falangi e taceva. Poi, ad un tratto, Hanno udì qualcosa che non aveva alcuna relazione con quel discorso. Udì una voce sommessa, angosciata e quasi implorante che non aveva mai udita, ma pure era la voce di suo padre. «Il sottotenente è con la mamma già da 2 ore, Hanno». Ed ecco a quel suono il ragazzo aprì gli occhi bruno dorati e li fissò grandi, limpidi e amorosi come non mai sul viso del babbo, su quel viso dalle palpebre arrossate sotto le sopracciglia chiare e dalle guance pallide un po' gonfie, oltre le quali sporgevano le lunghe rigide punte dei baffi. Dio sa quanto poteva aver capito, ma una cosa era certa, e lo sentirono entrambi, che in quei momenti, mentre i loro sguardi si incontravano, ogni distanza, ogni freddezza forzata e ogni malinteso erano scomparsi fra loro, e che Thomas Buddenbrook, ora come sempre, quando non fossero state in gioco l'energia, la bravura, la risolutezza, ma la paura e la sofferenza, poteva essere più che sicuro della confidenza e della devozione di suo figlio. Thomas Buddenbrook, a 48 anni, pensava già che i suoi giorni fossero contati e prevedeva la morte vicina. La sua salute era peggiorata. L'insonnia, la disappetenza, le vertigini e quel tremito al quale era sempre stato disposto lo costrinsero più volte a consultare il dottor Langhals. Ma non riusciva a seguirne le prescrizioni. La sua forza di volontà, minata da anni di inerzia affaccendata e affannata, non era più sufficiente. Aveva incominciato a rimanere a letto la mattina fino a tardi, benché ogni sera formulasse l'iroso proposito di alzarsi presto per fare, prima del tè, la passeggiata prescritta. In realtà lo fece soltanto 2 o 3 volte, e così avveniva in tutte le cose. La costante tensione della sua volontà, senza buoni risultati e senza soddisfazioni, logorava il suo rispetto di sé e lo faceva disperare. Era ben lontano dal negarsi il godimento narcotizzante delle forti sigarette russe che fin da giovane fumava in grandi quantità. Ma le sue forze andavano diminuendo. Si rafforzava in lui soltanto la convinzione che così non si poteva andare avanti a lungo e che la sua dipartita era prossima. Gli venivano strane idee e presentimenti. Una volta a tavola ebbe la sensazione di non essere più insieme ai suoi, ma di trovarsi in una lontananza nebulosa dalla quale li guardava. «Morirò», diceva tra sé, e allora chiamava il figliuolo e lo esortava. «Posso andarmene, figlio mio, più presto di quello che si pensi, e allora devi essere al tuo posto». E non era soltanto questo. Non era soltanto il pensiero per l'avvenire di suo figlio e della casa che lo faceva soffrire. Un'altra cosa, una cosa nuova si impadronì di lui e agitava i suoi stanchi pensieri. Appena infatti la sua fine gli si presentò, non già come una necessità lontana, teorica e inconsistente, ma come cosa vicina e tangibile, per la quale bisognava far preparativi immediati, si mise a riflettere, a scandagliare se stesso, a pensare il suo atteggiamento di fronte alla morte e al problema dell'aldilà. e già ai primi tentativi gli risultò che il suo spirito era assolutamente immaturo e impreparato a morire. Thomas Buddenbrook, benché nella sua vita avesse accarezzato talvolta una certa inclinazione al cattolicesimo, era pur sempre compreso di quel senso di responsabilità severo, profondo, inflessibile, rigido fino al martirio che hanno i veri protestanti. No, di fronte alle cose supreme, egli non poteva aspettarsi alcun aiuto esterno, alcun mediatore, alcuna soluzione. Con assidua e ardente fatica doveva risolvere l'enigma prima che fosse troppo tardi e prepararsi chiaramente o morire disperato. Deluso e senza speranza staccò dunque lo sguardo dal suo unico figliuolo, nel quale si era illuso di continuare a vivere forte e rinnovato, e prese a cercare in fretta, con pavida ansietà, quella verità che pur doveva esistere in qualche luogo per lui. Un giorno, dopo colazione, mentre i suoi genitori prendevano il caffè nella stanza di soggiorno, Joa udì il babbo comunicare alla mamma che quel giorno aspettava l'avvocato tal dei tali per redigere il testamento, la cui stesura non si doveva procrastinare all'infinito. Più tardi Hanno si esercitò per un'ora intera al pianoforte. Quando poi stava per attraversare il corridoio, si imbatté in suo padre che saliva dallo scalone insieme a un signore in soprabito lungo e nero. «Hanno!» chiamò il senatore. Il piccolo si fermò, mandò giù la saliva e rispose subito con voce sommessa. «Dimmi, babbo!» «Ho da fare un lavoro importante con questo signore», soggiunse suo padre. «Fammi il piacere di metterti davanti a questa porta». E indicò l'ingresso della stanza dei fumatori. «E stai attento che nessuno ci disturbi. Nessuno, hai capito?» «Sì, babbo», disse Johan, e si mise davanti alla porta che si chiuse dietro quei due. Passò Ida e domandò: «Hanno, piccino mio, dove sei? Che cosa fai qui?» Dall'ufficio l'apprendista Gobbo salì con un telegramma in mano e chiese del senatore. Ma ogni volta Hanno stendeva il braccio entro la manica della marinara dall'ancora ricamata, scoteva il capo e diceva risolutamente, dopo un attimo di silenzio: «Non si può entrare, il babbo fa testamento». Il senatore Thomas Buddenbrook lasciò il municipio molto tempo prima che fosse terminata la seduta. Prese a destra, avviandosi dunque non verso casa sua. Irreprensibile, pulito ed elegante, si incamminò per la via larga con quel suo passo un po' saltellante, salutando continuamente di qua e di là. Ma la sua testa così ben curata mostrava una grande stanchezza. Parecchi passanti notarono che improvvisamente gli occhi arrossati gli si empivano di lacrime e che teneva le labbra serrate in un modo strano e convulso. Ogni tanto inghiottiva come se la bocca gli si fosse empita di liquido. Dai movimenti dei muscoli alle guance e alle tempie si capiva che stringeva le mascelle. «Come, Buddenbrook, hai marinato la seduta? È una gran novità», gli disse qualcuno che gli vide venirsi incontro al principio della Mühlenstrasse. Oh, sei tu, fece il senatore a voce bassa e muovendo le labbra con uno sforzo. In certi momenti non ci vedo. Ho dolori atroci. Dolori? E dove? Mal di denti, fin da ieri. Questa notte non ho chiuso occhio. Non sono andato ancora dal dentista perché questa mattina avevo da fare in ufficio e poi non volevo mancare alla adunanza. Ma ora non ne posso più e vado da Brecht. Dove ti fa male? Qui sotto, a sinistra. Un molare. È naturalmente cariato. È una cosa insopportabile. Addio, addio, Kistemacher. Capirai, ho fretta. Nella Müllerstrasse entrò in una casa verniciata di giallo bruno e salì al primo piano dove su una targa di ottone si leggeva Brecht, dentista. Non vide neanche la domestica che venne ad aprirgli. Nel corridoio stagnava un odore caldo di bistecche e cavolfiore. Poi respirò improvvisamente l'odore acuto della sala d'aspetto nella quale fu fatto entrare. Tosto vide apparire sulla soglia del gabinetto i baffi brizzolati, il naso aquilino e la fronte calva del dentista. «Prego», disse questi. Il senatore obbedì all'invito senza ridere. «Caso grave», pensò Brecht impallidendo. Entrambi attraversarono rapidamente la stanza piena di luce verso il seggiolone girevole situato davanti a una delle due finestre col suo cuscinetto per la testa e i braccioli di velluto verde. Sedendo, il senatore spiegò in breve di che cosa si trattava. Appoggiò la testa e chiuse gli occhi. Brecht aggiustò un poco la poltrona e si mise a esaminare il dente con lo specchietto e il bastoncino d'acciaio. Le sue mani sapevano di sapone alla mandorla, il suo fiato di bistecca e cavolfiore. «Bisognerà procedere all'estrazione», disse dopo qualche istante, sbiaccandosi ancora. «Proceda pure», fece il senatore stringendo ancor più le palpebre. Thomas stringeva con ambo le mani i braccioli di velluto. Non sentì quasi il contatto delle tenaglie che afferravano il dente, ma poi, dallo stridore che aveva in bocca e dalla pressione sempre più forte, più dolorosa, più atroce cui era esposta tutta la testa, si accorse che ogni cosa procedeva per il meglio. «Dio mi assista», pensò. «Adesso viene. Questo dolore cresce e cresce all'infinito e diventa intollerabile fino alla catastrofe vera e propria, fino a uno schianto folle e inumano che ti strazia il cervello. Ma poi è finita. Ora devo resistere». Durò 3 o 4 secondi. L'impiego di forza del signor Brecht, che tremava, si comunicò a tutto il corpo di Thomas, che si sentì quasi sollevato dalla poltrona e udì come un breve rantolo in fondo alla gola del dentista, e a un tratto ci fu un urto terribile, uno scrollone come se gli si rompesse il collo e un breve schianto. Egli aprì gli occhi. Brecht si era tirato indietro e, appoggiato all'armadio degli strumenti, esclamava pallido come la morte. «La corona, me l'aspettavo». Thomas sputò un po' di sangue nella bacinella azzurra che aveva di fianco, perché la gengiva aveva subito una lesione. Poi domandò quasi svenuto: «E che cosa si aspettava? Che dice della corona?» «Si è spezzata la corona, senatore. Lo temevo. Il dente è troppo guasto, ma era mio dovere tentare». «E adesso?» «Lasci fare a me, senatore». «Che cosa bisogna fare?» «Bisogna estrarre le radici. Mediante la leva sono 4». «4? Dunque bisognerà scalzare e tirare 4 volte?» «Purtroppo». «Beh, però ci basta», disse il senatore facendo l'atto di alzarsi, ma rimase ancora seduto e reclinò la testa. «Caro signore, lei non deve pretendere più di quanto un uomo possa sopportare. Non sono proprio in forze oggi. Comunque sia, per ora basta così. Per favore, vuole aprire un po' quella finestra?» Brecht eseguì e replicò: «Le sarei molto grato, senatore, se volesse ripassare domani o dopodomani a qualunque ora». Thomas scendeva già le scale. «Mediante la leva. Sì, domani. E ora andare a casa e riposare, cercare di dormire. il vero dolore sembrava smorzato. Gli era rimasto in bocca soltanto un bruciore sordo e pesante. A casa dunque. Thomas arrivò alla Fischergrube e prese il marciapiede di sinistra. Dopo una ventina di passi incominciò a sentirsi male. «Vado nella fiaschetteria di fronte, devo prendere un cognac», pensò, e scese dal marciapiede. Quando arrivò nel mezzo della strada gli capitò questo fatto. Era come se qualcuno gli prendesse il cervello e una forza irresistibile lo facesse girare a spirale con rapidità sempre crescente, paurosamente crescente, in cerchi concentrici sempre più piccoli, sempre più stretti, e infine lo scaraventasse con violenza brutale e spietata contro il centro durissimo di quei cerchi. Fece mezzo giro su se stesso e andò a sbattere con le braccia aperte sul lastrico bagnato. Siccome la strada era in forte pendenza, la sua testa era alquanto più in basso dei piedi. Era caduto col viso in giù e lì sotto incominciò subito ad allargarsi una pozza di sangue. Il cappello era ruzzolato un tratto per la strada. La pelliccia era tutta insaccherata di fango e acqua di neve. Le mani, nei guanti di pelle bianca, giacevano in una pozzanghera. Così stette e così rimase finché alcune persone accorsero e lo rivoltarono. La signora Permaneder salì lo scalone, sollevando con una mano la veste e con l'altra premendosi contro la guancia il grande manicotto marrone. Più che camminare, proseguiva inciampando e cadendo. Aveva il cappuccio storto, le guance accaldate e sul labbro superiore un po' prominente piccole gocce di sudore. La porta dell'anticamera era aperta e sua cognata le venne incontro. Il bel viso bianco di Gerda Budenbrock era contratto per l'orrore e il ribrezzo, e i suoi occhi castani troppo vicini e adombrati di luce azzurrina mandavano sguardi conturbati, pieni di rancore e di disgusto. Appena riconobbe Tony, allargò le braccia e la strinse a sé, nascondendo il viso sulla spalla di lei. «Gerda, Gerda, che cosa?» esclamò la signora Permaneder. «Che cosa è successo? Che cosa c'è? Caduto, dicono, privo di sensi. Come sta? Il buon Dio non vorrà il peggio. Dimmi tutto, per amor del cielo!» Ma non ottenne alcuna risposta. Sentì soltanto che Gerda era tutta scossa da un brivido. Poi percepì un mormorio sulla spalla. «Tu l'avessi visto quando l'hanno portato. In vita sua nessuno gli ha mai visto un granello di polvere. È un'infamia. Uno scherno che abbia dovuto finire così.» Un rumore sommesso giunse alle loro orecchie. La porta dello spogliatoio si era aperta e Ida Jungman era comparsa nel vano in grembiule bianco, una catinella in mano. Aveva gli occhi rossi. Vide la signora Permaneder e si ritrasse a capo chino per lasciarla passare. il mento le tremava. Quando Toni, seguita dalla cognata, entrò nella camera, le tendine fiorate delle finestre si agitavano alla corrente. Vi regnava un odore di acido fenico, di etere e di altri medicamenti. Nel largo letto di mogano, sotto la trapunta rossa, Thomas Budenbrock giaceva supino, svestito, in camicia da notte ricamata. I suoi occhi semiaperti erano vitrei. Le labbra, sotto i baffi scomposti, emettevano un balbettio e dalla gola gli usciva un suono gorgogliante. Il giovane dottor Langhals, curvo su di lui, gli toglieva dal viso una benda insanguinata e ne immergeva un'altra in una bacinella che era sul comodino. Poi auscultò il petto del malato e ne tastò il polso. Su uno sgabellino ai piedi del letto, il piccolo Johan si torceva il nodo della marinara e ascoltava, con viso assorto, i gemiti che suo padre emetteva dietro di lui. I vestiti insudiciati erano buttati sopra una sedia. La signora Permaneder si accoccolò a fianco del letto, prese la mano del fratello, fredda e pesante, e lo fissò negli occhi. Incominciò a capire che, sapesse o non sapesse il buon Dio quel che faceva, in ogni caso voleva il peggio. «Tom», incominciò a piagnucolare, «non mi riconosci? Come ti senti? Vuoi proprio abbandonarci? No, che non te ne vuoi andare, vero? Oh, non può essere, non deve essere!» Non seguì nulla che potesse parere una risposta.